Allora, un altro giorno eravamo guardati. Sì, non hai paura, ma fai tanto. Eravamo sul primo. No, sul morto, sul primo eravamo. E non è che ci siamo passati tutti, ci siamo passati tutti da 10-4 anni. E oggi non ci sono mai. Oggi ho fatto un pezzo dalle case, come l'altra volta.